ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. "24 Mattino" di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 18 minuti inizia questa terza parte di 24 Mattino di lunedì 20 luglio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, ecco. Buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori per questo lunedì che comincia, come di consueto, con la rubrichina "Tutto il mondo e il paese", ma questa mattina devo segnalare che non tutto il mondo e il paese. Noto una differenza, per esempio, nell'approccio che il quotidiano Le Figaro ha nel commentare la lunga trattativa notturna. Secondo Le Figaro, la Merkel e Macron hanno ceduto, hanno abbassato il capo, l'espressione francese, rispetto ai paesi frugali. E tutt'altra invece è la visione che viene dai nostri quotidiani, perché, e questa è una cosa da segnalare, non c'è soltanto il sondaggio di Ilvo Diamanti che avete citato poco fa, che dice Conte è il presidente del Consiglio più apprezzato che ci sia stato finora, viene prima di Prodi, per dire, che è prima di Berlusconi nel gradimento di un po' tutti i cittadini sondati. Ma ci sono anche dei singolari cambiamenti di posizione. Per esempio, ho notato un commento di Federico Fubini che si rimprovera un po' Conte per la diretta Facebook, però riconosce che ha gestito molto bene questa fase. C'è il commento di Romano Prodi sul Messaggero che gli riconosce altrettanto. Anche Stefano Folli è un po' su questa linea, benché sia stato molto critico in tutti questi mesi rispetto al governo. Ma la cosa più significativa che mi piace segnalare l'ho trovata sul Messaggero, che mette insieme i commenti di esponenti di Forza Italia come Osvaldo Napoli e Maria Stella Gelmini, che dicono: nonostante tutto Forza Italia oggi si sente di sostenere il paese e chi pro tempore lo rappresenta. E anche Carlo Calenda, il leader di Azione, dice: su questa battaglia noi siamo al 100% con il Presidente del Consiglio. Questo per dare un po' l'idea di come ci sia la percezione che siamo di fronte a qualcosa di veramente super importante per la sopravvivenza economica del nostro paese, mettiamola così. Sì, sicuramente, sicuramente. E anche per l'Europa, ovviamente. Vedremo come andrà a finire. Oggi, appunto, riprende la trattativa alle 16 e ovviamente domani mattina, Maria, anche con i nostri ospiti saremo qua a commentarla e a sentire le vostre opinioni. Tra l'altro, anche delle questioni europee parleremo tra poco col vice ministro dell'economia Antonio Misiani. Ma vogliamo aprire questa parte di 24 Mattino dedicandoci al criminalità organizzata e a come la criminalità organizzata, a causa della crisi economica da Covid, e quindi sempre là rimaniamo, può infiltrarsi nella nostra economia. Una questione che abbiamo affrontato spesso da questi microfoni e che oggi torniamo a fare, rafforzati se vogliamo dalla relazione della Direzione Investigativa Antimafia che è arrivata nella giornata di venerdì. È con noi il direttore della DIA, il generale Giuseppe Governale, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno generale, eccoci. Sì, pronto. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno generale, bentornato a 24 Mattino. Io vorrei cominciare subito da una preoccupazione che è stata espressa dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che compare anche nella vostra relazione. Vale a dire, sentiamo spesso citare, evocare la possibilità di disordini in autunno legati al fatto che i nodi vengono al pettine in economia. Quanti di questi disordini potrebbero essere in realtà eterodiretti, forse proprio innescati dalla criminalità organizzata? Sì, questo potrà verificarsi perché soprattutto nelle aree territoriali di riferimento storico delle mafie, quindi la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia, sono in grado di orientare la popolazione. Loro vivono le mafie, questo noi non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché noi le consideriamo delle organizzazioni criminali e basta, ma purtroppo loro ancora vivono perché storicamente arruolano, cioè è come fosse una compagine militare che arruola soldati. Da dove li arruola? Li arruola dal loro bacino. Ora, questo tra i soldati e il contorno non c'è soluzione di continuità, purtroppo. E quindi loro vivono direttamente a contatto con la gente. Cioè, si verificherà inevitabilmente un welfare alternativo, perché quando la popolazione se si troverà in difficoltà, loro porgeranno aiuti anche a tassi di interesse bassissimi, forse addirittura senza tassi di interesse. Cioè, signora, va bene, ci siamo noi, va bene, poi quando ce l'ha me le ridà, signora, non si preoccupi. Queste sono, e tutte queste cose noi non le possiamo sottovalutare. Sì. E non possiamo sottovalutarle affatto, perché quell'attività che lo Stato ha fatto per il contenimento sociale che finora è stato garantito sarà messa a dura prova. Sì. Generale, nel vostro rapporto voi parlate diffusamente del rischio che la mafia si innesti nell'economia con questo sistema di welfare alternativo e che poi capitalizzi il consenso avuto grazie a queste elargizioni di denaro alle prime elezioni utili nel breve termine. Avete timori anche per le regionali in arrivo? Ma certamente, non è che le regionali in arrivo sono un modello che si può enucleare e quindi rimane qualcosa chiuso dentro un alveo incontaminato. E certamente, tutto è così. Purtroppo lo sappiamo e la relazione lo dice. Quest'anno noi abbiamo avuto 51 enti locali sciolti per mafia. È il dato più alto dal 1991. Ci sono tantissimi comuni della Calabria, della Sicilia, sciolti per mafia per la prima volta, altri più volte. Ciò significa che il problema è patologico. Abbiamo due aziende sanitarie, tutte e due della Calabria, Catanzaro e Reggio Calabria, che sono commissariate per infiltrazione mafiosa. E quanti soldi gestisce la sanità in una regione come quella della Calabria? Cioè, noi non possiamo non considerare che il problema dell'infiltrazione è un problema serio, lo è sempre stato, solamente che in epoche passate c'è stata insensibilità, da parte... Ecco, generale, mi scusi, proprio perché credo ai nostri ascoltatori... interessi capire se c'è un cambio di passo, cioè se la politica nazionale e locale si rende conto di quanto sia rischioso continuare in questo genere di commistione con i poteri criminali. Lei pensa che ci sia una maggiore reattività oggi o le cose stanno andando esattamente come sono sempre andate, con grave, diciamo, documento per il nostro paese, perché anche in Europa il fatto che la criminalità influenzi tanto gli acquisti e la vita, diciamo, sociale del paese, anche in Europa questa cosa pesa, conta. Ma io rispetto a tanti anni fa sicuramente noi non possiamo paragonare l'attenzione che c'è oggi con quella che c'era tanti anni fa. Cioè, nel 1925 un ex capo del governo, Vittorio Emanuele Orlando, al Teatro Massimo di Palermo disse alla fine di un discorso: e pertanto sono mafioso e mi dichiaro fiero di esserlo. Nel 1949 Scelba in Senato disse che si parla sempre di mafia, ma cari gentili o cari senatori, mi pare che si esageri nel 49. Oggi i nostri rappresentanti non dicono questo, e c'è una pratica anche di coinvolgimento della società civile che fortunatamente ha preso atto. Certamente abbiamo un problema di selezione della classe dirigente, questo senz'altro. Il problema della selezione della classe dirigente è legato alla farraginosità delle procedure, per esempio, dove la mafia va, dove ci sono interessi personali, dove c'è una tendenziale ritrosia all'assunzione di responsabilità. Quando c'è facciamo più regole facciamo, noi pensiamo di incardinare tutto e di tutelarci. La mafia va dove c'è farraginosità, non va dove ci sono regole semplici. Noi non dobbiamo, prevedevamo un PIL allo 0,2% per il 2020. Ora le previsioni più rosee ci danno un meno 9%. Noi abbiamo necessità assoluta che in 2 anni dobbiamo annullare questo gap, dobbiamo recuperare, e per recuperare dobbiamo fare delle scelte e dobbiamo controllare certamente, ma muoverci, perché la mafia è dinamica. Quando uno dà un ordine, poi viene seguito. Gli ordini della mafia non si appellano al TAR o al Consiglio di Stato. Noi abbiamo necessità di seguire le regole, però le regole devono essere fisiologicamente appuntate nel processo decisionale, sì. Non patologicamente, perché sennò fermiamo tutto e non assumiamo, sì, nessuna decisione. Ed è là ed è là che la criminalità organizzata si innesta. Generale, mi faccia spostare su un altro argomento, che è la questione della scarcerazione dei boss. Voi nella vostra relazione ci tornate con accenti di preoccupazione, dite che è un vulnus al sistema antimafia, ma soprattutto mi sembra di capire perché a livello proprio sociale si sono viste queste persone tornare nei loro territori. Ma guardi, non è che noi siamo preoccupati, la preoccupazione non fa parte dei nostri orientamenti. Quello che noi abbiamo il dovere di informare il Parlamento è di registrare quello che succede. Ora, l'azione della mafia è composta da due componenti. Quella diciamo cinetica, quello che fa, l'attività che svolge, e quella potenziale, cioè come viene percepita. E viene percepita dalla popolazione attraverso dei simboli. Cosa disse Paolo Borsellino? Ieri ne abbiamo ricordato la sua memoria a 28 anni dall'eccidio. Disse 15-20 giorni prima di morire: siamo dei cadaveri che camminiamo. E infatti diventò cadavere Borsellino, purtroppo per noi. Cioè, quando la mafia ti condanna, la condanna è certa e definitiva. Questo fa la gente, soprattutto del Meridione. Ma quando ti condanna lo Stato, la condanna è certa e definitiva. Noi dobbiamo sempre inchinarci alle decisioni dei giudici, però non possiamo non considerare che se la popolazione registra che una persona è condannata all'ergastolo e poi se lo vede uscire dice: ma lo Stato cosa fa? Condanna all'ergastolo e poi uno rientra nel territorio di riferimento? Un mafioso a 80 anni che rientra nel territorio di riferimento non è poveretto e un vecchietto, e sono quelli di 80 anni che loro cercano. Nel dicembre del 2018, quando è stata neutralizzata la ricostituzione di una cupola a Palermo, chi avevano messo i mafiosi a capo potenziale? Un ottantenne, Settimo Mineo, perché l'ottantenne era colui in grado di orientare le scelte e di frenare, per esempio, un certo Leandro Greco, nipote di Michele Greco, cioè del Papa, era considerato troppo irruente ed era capace di parlare per la mafia. Per la mafia quota 100 non esiste, generale. Prego. Per la mafia quota 100 non esiste. I mafiosi ottantenni in pensione non ci vanno. Cioè, dottor Rina è restato il capo fino al 17 di novembre del 2017. Dottor Rina era ammalato, ma cosa abbiamo detto all'epoca? Abbiamo detto: è un simbolo, purtroppo non lo possiamo scappare. letteraria, Totorrina, deve essere dato ogni cura che vale per qualsiasi cittadino, deve essere curato nel migliore dei modi, così come Bernardo Provenzano, però non può uscire se lo Stato ha assunto una decisione. Questi sono gli elementi intangibili del rapporto corretto nella lotta alla mafia. Maria, hai un'ultima domanda per il generale Governale o andiamo a chiudere? Io sono soddisfatta così e credo che questa relazione sia, come dire, si dovrebbe leggere non soltanto, non dovrebbe essere una lettura solo per giornalisti, ma una lettura per politici, ma anche una lettura per chi ci ascolta. Quindi invito chi può andarsela a vedere nei dettagli. La potete trovare facilmente. Solo un'ultima cosa. Prego. Guardi, io le dico questo, so che questo è una radio economica, guardi che lo Stato italiano, la nostra nazione, da questo punto di vista secondo me è la più avvantaggiata, perché è l'unica nazione che registra un gap particolarmente rilevante tra l'area sud del nostro paese e l'area nord. Siamo quelli che, se facciamo crescere l'area sud, sono quelli che possono avere un indice incrementale superiore rispetto agli altri. E quindi lì quella questione meridionale, che non solo non è stata mai risolta, ma non è stata, non certamente oggi, parliamo di tanti decenni, mai seriamente affrontata, forse la minaccia rappresenta, dicono i cinesi, un'opportunità. Potrebbe essere l'opportunità di fare crescere il Sud e quindi portare avanti questo nostro PIL in maniera rilevante. Grazie generale Governale, buona giornata. Grazie, buon lavoro. Buona giornata. Buon lavoro a lei e ai suoi uomini naturalmente. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo col viceministro Misiani. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Antonio Misiani, vice ministro all'economia, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a voi. E prima di parlare d'Europa però ci faccia parlare di tasse, perché oggi ci sono 51 versamenti da fare, 4 milioni e mezzo di partite IVA chiamate ad onorare queste scadenze che erano già state rinviate dal 30 giugno, partite IVA che protestano, Misiani, perché dicono bisognava rinviare anche questa scadenza, che dice? Un rinvio a settembre avrebbe aggravato la situazione. Vorrei ricordare che a settembre abbiamo rinviato i versamenti di marzo, aprile e maggio, ci sono tante scadenze, noi dobbiamo rimettere ordine, lo faremo con la riforma organica del fisco, perché bisogna superare una condizione in cui il saldo e il conto diventano il giudizio divino e un incubo per tanti contribuenti. Bisogna rimettere ordine, ci sono delle proposte sul tappeto, il Ministero dell'Economia le sta approfondendo, speriamo in legge di bilancio di dare un cambio ad una situazione che è oggettivamente complicata per tanti contribuenti. Maria. Resto su questo brevemente per chiederle se pensa che sia praticabile la proposta arrivata dall'Agenzia delle Entrate di un pagamento mensile, in che cosa cambierebbe eventualmente il sistema, perché potrebbe essere un vantaggio? Perché servirebbe a sdrammatizzare il meccanismo del saldo a conto periodico. Io credo che sia una proposta interessante e uno dei temi su cui è necessario fare un lavoro di approfondimento. Resto ancora su questo tema, Misiani. C'è un problema per le piccole e medie imprese, per le partite IVA, per i commercianti. Loro dicono, lasciando la scadenza a oggi, poi ce ne saranno altre il 30 luglio, altre il 31 luglio, voi rischiate di lasciarci senza liquidità in una fase di grande difficoltà. Un rinvio a settembre ci avrebbe consentito quantomeno di provare a ricostituire un po' di fondi in una fase senza lockdown. Il governo ha fatto parecchi interventi a favore delle piccole e medie imprese, ricordavo in precedenza il rinvio dei versamenti di marzo, aprile, maggio, e noi con lo scostamento di bilancio che chiederemo al Parlamento nei prossimi giorni cercheremo di allungare, di riprogrammare quella scadenza. Abbiamo ridotto le tasse nel 2020 per 7 miliardi e mezzo di euro, che salgono a 21 nel 2021 e oltre 28 dal 2022. Vorrei ricordare l'eliminazione della rata di giugno dell'IRAP, i crediti d'imposta per gli affitti, per le spese di sanificazione e di riorganizzazione dei luoghi di lavoro. Abbiamo esentato dall'IMU gli alberghi e le strutture ricettive, abbiamo azzerato la TOSAP per parecchi mesi, sospesa la plastic tax e la sugar tax. E forse l'intervento più importante, abbiamo annullato permanentemente le clausole di salvaguardia, quindi non c'è più la spada di Damocle dell'enorme aumento dell'IVA che è stato l'incubo dei governi, ma soprattutto dei contribuenti anno dopo anno. L'abbiamo tolta e solo questo intervento vale 20 miliardi di tasse in meno nel 2021 e 27 miliardi in meno dal 2022. Sia onesto con noi e con i nostri ascoltatori. Nell'intervista alla stampa che leggo questa mattina, lei dice, proprio alla domanda, alla stessa domanda che le ha fatto Simone Spezia, lei dice: a un certo punto però le imposte vanno pagate. Siccome i soldi, se arriveranno dall'Europa, arriveranno, se va bene, nel 2021 inoltrato, c'è un rischio che se le imposte non vengono pagate poi lo Stato non abbia i soldi per finanziare tutte le spese che normalmente vengono finanziate con le nostre imposte, con le imposte di chi le paga? Il rischio c'è a prescindere dai fondi che arriveranno dall'Europa sotto forma di prestiti o di contributi a fondo perduto. Noi abbiamo fatto interventi per 75 miliardi di euro in emergenza finanziandoli a deficit. Il deficit porta con sé debito pubblico, è stato necessario e inevitabile fare questa scelta, come è accaduto in tutte le altre economie che stanno finanziando a deficit le misure anticrisi, ma non possiamo andare avanti in eterno facendo deficit e caricando nuovo debito sulle spalle degli italiani. È chiaro che bisogna via via recuperare un equilibrio e il versamento delle imposte serve per finanziare servizi essenziali, è un elemento fondamentale. Se non si pagano le tasse non abbiamo i soldi per pagare la sanità, per pagare la scuola, per pagare tanti servizi fondamentali per i cittadini. Poi è chiaro che bisogna migliorare il funzionamento del sistema fiscale, che è complicato, che è burocratizzato e che è iniquo, e l'obiettivo della riforma fiscale che vogliamo discutere e approvare in autunno è esattamente questo. E però Misiani, resta il tema concreto, cioè il rischio che le imprese saltino, pensi solamente a tutte quelle, e lo sa perfettamente, che hanno anticipato la cassa integrazione. Cioè, noi abbiamo ascoltatori che ci scrivono, che ci dicono che la cassa di aprile non è ancora arrivata e probabilmente gli è stata anticipata dal datore di lavoro. Cioè un problema di liquidità queste aziende ce l'hanno oggettivamente. Ed è il motivo per cui abbiamo dedicato un intero provvedimento alla liquidità delle imprese, e il motivo per cui abbiamo stanziato quasi 10 miliardi di euro per garanzie statali che favoriscono l'erogazione di nuova liquidità, e il motivo per cui abbiamo previsto e stiamo erogando miliardi di euro in contributi a fondo perduto, che sono molto più mirati di un intervento generalizzato sulle tasse, perché il contributo a fondo perduto aiuta le imprese che sono maggiormente in difficoltà, perché non dimentichiamoci che la crisi ha avuto un impatto molto differente da settore a settore, molti sono in difficoltà, altri lo sono meno, noi abbiamo il dovere di utilizzare i soldi pubblici per aiutare le imprese, le partite IVA e i contribuenti in condizioni di maggiore difficoltà. Ecco, vorrei riallacciarmi alle parole molto criticate della vice ministra dell'economia Castelli, che intendeva dire, forse, cerco di capire se lei condivide questa mia interpretazione, intendeva dire: questo è un paese che non ha mai fatto una programmazione per il futuro. Negli ultimi anni, siccome il turismo per fortuna andava benissimo, uno dei modi di trovare un lavoro in Italia era quello di aprire un ristorante. Noi qui abbiamo avuto ospite un rappresentante appunto della categoria molti mesi fa, il quale diceva: in tanti aprono ristoranti, non tutti hanno le spalle poi coperte per farli. Non crede che un paese che si affidi solo ed esclusivamente al turismo sia più a rischio, nel senso che poi arriva il Covid, arriva qualcosa di un cigno nero imprevisto che costringe a star chiusi per 3 mesi e tante attività non reggono a questo impatto. La mia domanda è: vogliamo approfittare di questa tragedia che si è abbattuta sul paese per fare un po' di programmazione, anche perché, ripeto, i soldi del Recovery Fund arriveranno non certo per abbassare le tasse o per alzare le pensioni, arriveranno se l'Italia propone un piano preciso per il futuro del paese. Misiani, aspetti un attimo, la faccio rispondere, però abbiamo una pausa veramente di 50 secondi, se no finiamo troppo tardi con questa pausa. Una breve pausa e poi la faccio rispondere, via. Mattino. Prego Misiani, prego. Allora, il turismo è un settore di enorme importanza per l'economia italiana, vale il 13% del PIL, è una quota superiore rispetto alla media europea e il crollo del turismo spiega il differenziale che vede l'Italia in condizioni peggiori rispetto agli altri paesi europei per la crisi che stiamo soffrendo nel 2020. Ho detto, noi dobbiamo fare due operazioni. La prima è di emergenza, dare una mano alle imprese del settore, le imprese del settore Horeca che stanno soffrendo una riduzione molto significativa di fatturato. Lo ripeto, lo stiamo facendo con i contributi a fondo perduto, con le misure di carattere fiscale, con le misure specifiche rivolte al settore turistico, penso al tax credit per le vacanze e ad altri interventi di natura settoriale. Poi, e avete assolutamente ragione, dobbiamo fare uno sforzo di programmazione per il futuro, perché è evidente che quanto è successo un'epidemia di queste proporzioni non può che portarci a riflettere su come riorganizzare il settore turistico, direi l'insieme dell'economia italiana, quali strumenti mettere in campo nel medio e lungo periodo per renderci maggiormente in grado di reggere emergenze come quelle che stiamo soffrendo in questi mesi. E da questo punto di vista i programmi varati dalla Commissione europea rappresentano un'oggettiva opportunità. Vedremo come andrà a finire il negoziato molto complicato e molto duro di queste ore. Speriamo tutti che finisca positivamente per l'Italia e per l'Europa, me lo lasci dire, perché in gioco in queste ore è il futuro dell'Unione Europea. Se le cose andranno come noi speriamo, avremo a disposizione risorse per finanziare progetti, per finanziare programmi di ripresa economica. È chiaro che il settore turistico non potrà che essere oggetto di una parte significativa di questi interventi, per il valore che ha per l'economia nazionale e per le centinaia di migliaia di persone che di turismo vivono e nel turismo lavorano. Ultima domanda a tema tasse. L'ipotesi di sanzioni ridotte per chi paga entro il 30 settembre le sembra un'ipotesi praticabile, questa sorta di proroga ex post della quale qualcuno dall'opposizione ha parlato? Guardi, le sanzioni oggi sono previste nello 0,4% per chi invece di pagare il 20 luglio paga entro il 20 agosto. Vuol dire che per 1000 euro di tasse c'è una maggiorazione di 4 euro. Ci ho detto, noi siamo sempre disponibili a discutere in Parlamento le proposte presentate dalle forze politiche, comprese quelle di opposizione. Maria, prego. Vorrei restare su Bruxelles. Romano Prodi sul Messaggero dice: con l'unanimità ogni nano si sente un gigante. Per quello che consta a lei, possiamo davvero pensare che i cosiddetti paesi frugali o avari, come li chiama qualcun altro, si stiano isolando, oppure ha ragione Le Figaro che questa mattina titola Macron e Merkel abbassano la faccia, in modo un'espressione francese, di fronte a Olanda, Danimarca, eccetera? Non è un derby di alcuni paesi contro gli altri, c'è una larga condivisione in Europa a partire dai maggiori paesi, dalla Germania, dalla Spagna, la Francia, compresa l'Italia, sull'architettura, le dimensioni e la governance della proposta presentata dalla Commissione europea, il Next Generation EU, che è il nome che è stato attribuito al cosiddetto Recovery Fund, che è il cuore dei programmi europei per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria. Noi stiamo lavorando per trovare un punto d'equilibrio. I paesi frugali esprimono sensibilità, a mio giudizio, eccessivamente condizionate dalla politica interna, dai partiti populisti i sovranisti che vedono con grande ostilità gli interventi nei confronti delle economie più colpite dalla crisi, vedono con grande ostilità misure solidaristiche all'interno dell'Unione. Io sono convinto che alla fine prevarrà la ragionevolezza e la volontà di far fare un passo in avanti all'Europa, che sta soffrendo la più severa recessione dal dopoguerra ed è colpita da un fenomeno che non conosce frontiera ed è in una condizione in cui nessuno in realtà si può salvare da solo, nemmeno i paesi frugali, nemmeno le economie che si pensano forti, ma che in realtà sono fortemente interconnesse con il resto d'Europa e dal resto d'Europa dipendono per il loro futuro. Mi scusi Misiani, è così drammatico che alcuni paesi europei chiedano di avere un po' di controllo sui quattrini che vengono elargiti all'Italia? Perché molte... No, non è drammatico. Non è drammatico perché non diventi potere di veto. Non è drammatico purché non tolga alle istituzioni europee, alla Commissione e al Parlamento europeo le prerogative che sono loro attribuite dai trattati. Cioè il governo è d'accordo che ci sia un controllo su come poi vengono spesi questi soldi che vengono elargiti? Noi siamo d'accordo sulla coerenza dei programmi di spesa con gli obiettivi definiti dall'Unione Europea e dalla Commissione e siamo d'accordo con meccanismi di trasparenza e di verifica, ma è un punto importante per i cittadini italiani prima ancora che per il resto d'Europa, perché noi abbiamo il dovere di spendere nel migliore dei modi possibili queste risorse e di non sprecarle come purtroppo in passato è accaduto. Quindi, in Italia con l'utilizzo dei fondi europei. Tanto per chiarire, se Mark Rutte ci sta ascoltando da Bruxelles, i soldi che dovrebbero arrivare col Recovery Fund non serviranno né ad abbassare le tasse né ad alzare le pensioni, è così? Esattamente, è esattamente così, e lo abbiamo detto più volte, sono fondi che servono innanzitutto per finanziare investimenti, progetti di sviluppo. Né a nazionalizzare servirebbero qualche azienda, Misiani? No, non servono nemmeno a nazionalizzare. Vorrei ricordare che non sono fondi ricorrenti, non possono servire per finanziare spese correnti o la riduzione di entrate tributarie, servono per finanziare progetti di sviluppo e in primo luogo progetti di investimento. Infrastrutture, digitalizzazione, green economy. A proposito di nazionalizzazioni, alle viste c'è qualcos'altro, Misiani, o ci si ferma qua? Io non userei il termine nazionalizzazione, userei invece il concetto di una nuova alleanza tra lo Stato e il settore privato per aiutare il sistema produttivo italiano a reggere la peggiore recessione dal dopoguerra e a ripartire. Questo è il punto ed è il motivo che ci ha portato a scelte attive da parte dello Stato, ma che hanno la unica finalità di aiutare il sistema produttivo italiano a ripartire. Misiani, l'ultima cosa, il ministro dell'economia francese già un mese e mezzo fa aveva avvertito: presenterò il progetto di rilancio dell'economia francese a settembre, dopo aver ascoltato tutti, però lì ci stanno lavorando intensamente, per esempio hanno già un progetto molto chiaro su quello che vuole diventare la Francia sul fronte dell'automotive, stanno lavorando a un progetto molto chiaro per quanto riguarda le start-up. L'impressione invece è che, sì, anche l'Italia ha detto, anche il presidente Conte ha detto presenterò il progetto a settembre, ma non capiamo chi ci sta lavorando e su cosa. Beh, noi abbiamo presentato pochi giorni fa il programma nazionale di riforme, in precedenza il presidente Conte ha condotto gli stati generali che sono stati un momento molto importante di confronto e di interlocuzione con le organizzazioni economiche e sociali, con le istituzioni territoriali. Il gruppo guidato da Colao ha presentato un corposo documento di proposte. Non mancano le idee, le proposte, i suggerimenti e le istanze su cui costruire il recovery plan italiano. Ci lavoreremo nelle prossime settimane. L'obiettivo di presentazione a settembre, lo vorrei ricordare, è in anticipo rispetto alle tempistiche proposte dalla Commissione europea che arrivano fino alla primavera del 2021. La volontà del governo italiano di lavorare in anticipo e di arrivare già a settembre col proprio recovery plan è la dimostrazione, la testimonianza, credo, di come prendiamo sul serio gli impegni e l'idea di programmi europei che servono non per finanziare interventi a pioggia, ma programmi precisi di rilancio e di sviluppo. Dobbiamo chiudere. Grazie Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia. Maria, ci risentiamo domani 8:20. A domani, ciao. Arrivederci Vice Ministro. Ciao a tutti, ciao. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.